Praticamente è stata indetta una manifestazione proprio diciamo come votata in assemblea, perché praticamente abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale denunciando la situazione qui all'interno dell'ospedale, all'interno dell'ASL Roma B, dove vengono costantemente, la carenza di personale fa sì che non vengano garantiti i livelli essenziali di assistenza, mettendo seriamente a rischio l'assistenza, quindi appunto la cura e l'assistenza dei pazienti che si rivolgono presso le nostre strutture sanitarie. Essendo grave l'atteggiamento, naturalmente grave ma nello stesso senso consapevole, perché questa roba deriva da scelte politiche da parte della regione e da parte del governo, che ha deciso di smantellare la sanità pubblica e quindi di ridurre allo stremo sia gli operatori sanitari che i cittadini che si rivolgono a queste strutture. Per protesta di questa cosa abbiamo indetto oggi questa manifestazione, che dovremmo appunto partire verso mezzogiorno in corteo da qui dall'ospedale Sandro Pertini fino alla direzione generale di via Filippo Meda e quindi passando qua per il quartiere Piero, per il quartiere di Burtino. Senti, ci puoi raccontare nel concreto quali sono i casi più gravi, le carenze più evidenti all'interno del Pertini? Perfetto, all'interno del Pertini la situazione è estremamente grave, nei pronto soccorsi in alcuni reparti naturalmente. In pronto soccorso l'assistenza viene garantita a secondo la disponibilità del personale, nonostante un pronto soccorso appunto che ha accessi anche oltre 300 accessi al giorno, la carenza di personale fa sì che il personale infermieristico, ausiliario e quant'altro che sta in turno non è in base a quello che è previsto, quindi di 12 infermieri in turno, ma secondo la disponibilità degli infermieri, quindi si passa da 12 a 11 e anche fino a 9 infermieri a turno la notte e sabato e la domenica. Questa cosa contravvenendo, essendo completamente illegale, in quanto non garantisce i minimi previsti addirittura in caso di sciopero, perché per assurdo se io sciopero devo garantire, no? Certo. Quelle unità. Invece costantemente da parte di questa dirigenza, che è completamente appunto addomesticata alle politiche di smantellamento, fa sì che questi infermieri siano meno. Oppure la pediatria, per esempio. Nella pediatria molto grave è che hanno chiuso posti letto per carenza di personale, addirittura posti letto non previsti dai piani di rientro, dai piani di rientro regionali. Si tiene un solo infermiere al reparto a guardare i bambini, quindi mettendo a rischio la salute dei bambini, la vita dei bambini, perché se c'è da effettuare delle manovre d'emergenza, naturalmente quell'infermiere non sa se stare sopra al bambino oppure andare a chiamare il medico, il rianimatore e quant'altro, che non è sempre presente al reparto, oppure nell'osservazione breve pediatrica. È stata istituita a fianco del pronto soccorso pediatrico l'osservazione breve, dove giacciono per giorni i bambini in attesa di posti letto, visto che sono stati chiusi i posti letto, stanno lì in attesa, quindi ricoverati, e spesso non c'è mai l'infermiere che li guarda, perché l'infermiere che si trova al pronto soccorso pediatrico è l'infermiere che dovrebbe badare e controllare e quindi seguire i bambini che stanno all'osservazione breve pediatrica. Mancano due infermieri di rianimazione nel reparto di rianimazione, pazienti, manca, abbiamo denunciato da tempo che sono cominciati i lavori per costruire la subintensiva post-operatoria, dove vanno i pazienti nel post-operatorio per essere assistiti. Siccome questa cosa è carente, noi abbiamo pazienti che finito il tavolo operatorio, quindi l'operazione di cui avevano bisogno, rimangono anche per giorni dentro la sala operatoria e quindi diciamo distraendo personale da quella che è l'attività appunto di camera operatoria. Diciamo che questi sono alcuni aspetti. Sui servizi territoriali la situazione sta diventando pesante anche là, perché consultori manca personale e quindi va nel senso di quello che vuole ridurre i consultori, sta distruggendo la politica da Polverini, che sta distruggendo i consultori. Ci sono i servizi di radiologia che prima effettuavano appunto tutte le prestazioni diagnostiche anche nell'attività pomeridiana, oggi non si fanno più prestazioni attività pomeridiana per carenza di personale, quindi c'è una stanno consumando piano piano tutte quante le strutture. È chiaro che il problema dell'ospedale San Due Pertini, dove il cittadino viene, trova il rischio che non trova posto letto, perché c'è tutta la chiusura degli ospedali, quindi la carenza di posti letto a livello regionale, non c'è disponibilità di posti letto, rimangono per giorni e giorni sulle barelle di pronto soccorso, oltretutto fermando le barelle delle ambulanze che portano i pazienti, che non essendoci posto letto rimangono sulla barella dell'ambulanza, quindi impedendo anche che le ambulanze del 118 possano, bloccate al Pertini, possano tornare in strada ad effettuare i soccorsi necessari per cui vengono chiamati. Senti, ci ricordi più o meno quant'è il bacino di utenza del Pertini? Quante persone? Allora, il Pertini innanzitutto copre un versante, il versante della capitale, che è un versante enorme, che è tutto il versante sud-est. Diciamo che tra gli ospedali è uno quello che ha i maggiori accessi di pronto soccorso, viaggiamo oltre 90.000 accessi l'anno, cioè quindi abbiamo 90.000 persone che accedono presso il nostro pronto soccorso, e abbiamo solamente 300 posti letto, perché nel corso di questi anni sono stati tagliati i posti letto, e quindi diciamo che abbiamo una bocca grande e un corpo piccolo. Dopodiché chiediamo la disponibilità alle altre strutture sanitarie del territorio cittadino per la disponibilità dei posti letto, e naturalmente non c'è disponibilità dei posti letto se non nelle cliniche private. Allora, io ho grosse perplessità su quello, sul tipo di degenze che poi avvengono in cliniche private. Per esempio, l'azienda ospedaliera San Camillo ha posto un grave problema sul trasferimento dei pazienti presso strutture accreditate da parte della regione, perché questi pazienti al San Camillo ritornavano o con grossi problemi perché non erano stati curati, probabilmente quest'altro non effettua i contorni necessari che dovrebbero essere fatti per verificare che tipo di assistenza viene data in queste cliniche accreditate, e quindi c'è un problema proprio, cioè il progetto è quello di smantellare la salute pubblica per dare in mano ai privati, che poi non garantiscono, e che poi succede come quello che è successo allo scandalo più enorme che c'è stato, è quello della clinica Santa Rita di Milano, no? Dove per ricevere rimborsi a livello regionale operavano pure la gente di cui non aveva bisogno. Stefano, l'ultimissima cosa che ti volevamo chiedere, la questione ovviamente è generale, si parla di politiche regionali e di politiche governative, nel immediato però, almeno per quanto riguarda il Pertini, quali sono le vostre richieste a breve termine? Noi chiediamo all'azienda, infatti arriveremo fino alla via Fiumometa, calcola che se hai visto il comunicato stampa che abbiamo fatto, abbiamo detto tranquillamente che fino adesso le nostre denunce, il grido degli operatori è rimasto completamente inascoltato, sia da parte di una dirigenza che io definirei a dir poco vergognosa, sia da parte di una regione che evidentemente, come noi sosteniamo, altro, come dice la Polverini, altro che c'ha a cuore i cittadini, probabilmente non ce l'ha al cuore ma ce l'ha da qualche altra parte. Noi diciamo appunto che queste politiche sono tese a distruggere tutto quello che è rimasto di pubblico residuale, e quindi crediamo che le nostre lotte chiederemo appunto alla direzione che si assuma la responsabilità per cui è pagata, perché noi non possiamo permettere che qui ci siano dirigenti che guadagnano 200.000 euro l'anno, 250.000 euro l'anno, e che non si assumono la responsabilità anche di creare problemi da un punto di vista di immagine da parte della regione, perché è chiaro che oggi l'unica soluzione che avrebbe una direzione generale con una situazione così grossa di carenze personale è quella di attivare solo i servizi che possono essere garantiti, con ulteriore quindi danno di fruibilità alla cittadinanza. Quindi noi chiediamo che questa gente si assuma le loro responsabilità per cui sono pagati, perché altrimenti, come abbiamo sostenuto, altro che come dice l'ignorante ministro Brunetta, qui i fannulloni non sono i lavoratori della pubblica amministrazione come i lavoratori della sanità, sono dirigenti pagati con fior di milioni, con centinaia di migliaia di euro, che non si assumono mezza responsabilità. Quindi chiederemo che questa dirigenza si assuma le sue responsabilità, trovando immediatamente soluzione alle problematiche, perché non è pensabile che personale che ha lavorato 300 giorni l'anno oggi non abbia neanche garantito la possibilità di poter andare in ferie.